Per Natale la zia Dirce prepara i capponi. Da mio nonno se ne allevano tanti, sono tutti per il padrone. Ma la zia Dirce è quella di capponi a Natale. Noi rimaniamo a guardarla a bocca aperta, anche se sappiamo a memoria quello che fa. Lei prende il cappone, lo ubriaca nella scodella di vino cotto, gli tiene il becco aperto, gli fa fare un tuffo in mezzo al vino, gira la testa col becco verso il cielo e poi lo tira su. Dopo lo immobilizza col grembiule tra le ginocchia, disinfetta le forbici con l'aceto e taglia una fessura grande come un'asola proprio sotto la coda. Poi entra con le dita e tira fuori i fagiolini. Allora le cognate le porgono ago e filo. Lei cuce la ferita, disinfetta con l'aceto e ci mette un pizzico di cenere. Per ultimo taglia cresta e barbigli, incipriando i monconi sempre con la cenere. E sopra quei monconi ci appiccica le piume con sangue e cenere a far da collante. Ma che diavolo di nome è Dirce? Mi dice l'Anselmina, la mia amica. E così ci mettiamo a fare la gara dei nomi strani. Oddino, dico io. Anmeris, dice l'Anselmina. Zia Fiorita, tutto attaccato. Eleocadio, ribello. E non vale, dice l'Anselmina, te lo sei inventato. Ribello e ribelle, insisto io, eppure libero. E poi c'è Camillo, ma non vale, dice l'Anselmina. Camillo non è un nome strano. Ma come Camillo? Come Camillo Prampolini, dico io. Te lo sei inventato. Non è vero. Questo nome lo conoscono tutti al paese. E così noi andiamo dalla zia Dirce a chiedere spiegazioni. E lei ci racconta una storia. Ci racconta di un contadino che gli nasce una bambina e va all'anagrafe. All'impiegato dice che vuole chiamare sua figlia Traviata. Traviata non è un bel nome, fa l'impiegato. Traviata, gli risponde il contadino, è una bella opera. Zia Dirce, a vederla, sembra nata con l'ago in mano. Lei cuce e mia madre ricama. Lavorano la sera d'inverno nella stalla. Fanno pure le federe dei cuscini. Si semina e si raccoglie la canapa. Si macerano le fascine nell'acqua delle buche, si battono le fibre, si fila, si tesse, si cuce e alla fine si ricama. Ogni volta che vedo le federe penso alla fatica. La zia Dirce cammina un po' zoppa, veramente si notava appena, sembrava che non sapesse tenere il ritmo. Lei aveva sempre lavorato in campagna per il padrone, come tutte le donne e tutti gli uomini, come tutti i contadini mezzadri. Non puoi mica cambiare lavoro, un contadino mezzadro è proprietà dei padroni, come la terra, come le mucche e come i maiali. Ma nonno Siro un giorno, nonno Siro prende coraggio e va a parlare col padrone. Trova la forza di chiedere di lasciarla fuori dai campi, che non può mica lavorare con quel ginocchio malato. E così la zia Dirce si è messa a fare la sarta. Questa è stata la mia fortuna, lo diceva sempre. La zia non è bella, ma non è per questo che non si è mai voluta sposare. Secondo me è perché gli piace fare come le pare, non rendere conto a nessuno, essere libera. Quando esce e si mette la caloderma, la cipria, si cambia e mette un fazzoletto bianco sul sellino della bicicletta, sembra una signorina francese. È nata con l'ago in mano la zia Dirce, lei cuce e mia madre ricama. Lavorano la sera, di notte, d'inverno, nella stalla. La mia mamma invece si chiama Caterina, è nata il giorno dei morti e si ricorda sempre del treno. Se lo ricorda bene, se lo ricorda e se lo sogna ancora. Il treno Reggio Ciano, inaugurato il 24 maggio del 909. Vede la folla intorno alla ferrovia che urla, la gente che corre appresso, vede gli stantuffi, le grida e lei ferma a guardare questo treno passare scalza. Aveva 5 anni la mia mamma, la sua di mamma nemmeno se la ricorda perché era morta giovane. La mia mamma sogna sempre i treni. La mia mamma è sposata con mio papà, Prospero, e non ci sono foto di quando era ragazzo. Lui è un uomo esile, un po' troppo alto, e così tutti lo chiamano Prosperino. Mio papà è figlio di contadini mezzadri, ha fatto tutte le 5 classi delle scuole elementari. Mio papà è bravo a fare gli innesti, però il mio papà non è capace a trattare. Tu non sei capace a trattare, dice la mia mamma al mio papà. Ma la donna non può mica trattare. E allora lei gira intorno, fa finta di sfaccendare, sparisce, riappare, dice di aver promesso le bestie ad un altro, si inserisce nella discussione per caso, poi fissa i prezzi e calcola il totale. pure da quel poveraccio che vende le pelli di coniglio si prende sempre qualche soldino in più, però quando torno a casa la sera la sento parlare a voce bassa e allora mi avvicino per ascoltare, le sento dire: meglio nascere gatto piuttosto che donna. Le bestie non ce l'hanno mica tutti i contadini a Bibbiano, al mio paese. Noi sì. Il mio papà è un contadino mezzadro, cioè il padrone gli dà un pezzo di terra, lui la coltiva, il raccolto se lo prende il padrone e poi gli dà una parte. E a mio padre non gli sembra giusto. Ed è per questo che è diventato socialista e poi pure comunista. I padroni però diventano fascisti e anche qualche poveraccio diventa fascista, ma la maggior parte no, come il mio papà. Mio papà l'hanno picchiato nel viale della stazione. L'hanno chiamato fuori dal bar, gli hanno detto che gli dovevano parlare e lui è uscito. Fuori erano in quattro. Uno picchiava e gli altri lo tenevano stretto, erano quattro contro uno. Che comandava il padrone, che alla fine ha detto basta e si sono fermati. Me l'ha detto l'Anselmina, la mia amica. Mio padre non ne parla mai. L'Anselmina invece, l'Anselmina sa sempre tutto. Quando è nato mio fratello Orio, a casa mia c'era un gran trambusto. La casa si riempie di donne e quelle mi chiamano, mi fanno vedere un fagotto di pezze bianche da cui spunta un faccino grinzoso. La mia mamma se ne sta tutto il giorno a letto, è stanca, non ce la fa ad alzarsi. Che poi quando sta male lei va a lavorare, non l'ho mai vista così, tutto il giorno sdraiata sul letto. A me mi mandano a giocare con l'Anselmina. Il mio papà è sparito. Mi dicono che è all'ospedale. Ah, ma il tuo papà non è all'ospedale, mi fa l'Anselmina che sa sempre tutto. E dov'è? Dico io. Non te lo dico. Bocca cucita, bocca cucita. Dov'è? Non te lo dico, bocca cucita. Dov'è? È in prigione. È in prigione? Io prendo l'Anselmina, le salto addosso, la riempio di pugni, la picchio pure se sono più piccola. Mio papà è in prigione perché ha messo dei volantini di propaganda del partito, così dicono, però sono venuti a casa nostra e non li hanno trovati. Comunque la mia mamma poi prende la bicicletta, va in paese e porta le uova fresche al mio papà in prigione. Poi mio papà è uscito dalla prigione, solo che non riesce più a trovare lavoro perché il mio papà è un antifascista. Nessuno lo vuole far lavorare. Nessuno lo può far lavorare. Per decreto del ministero. D'estate la mia mamma e il mio papà mietono il grano in mezzo al giallo del sole e di spighe. Io li vedo curvi perché il campo è in salita. Mio papà coi muscoli tesi che spinge e la mia mamma davanti con una fune alle spalle che tira. Tira come una bestia da tiro. Una piccola curva bestia da tiro. Io li guardo da lontano, al lavoro in campagna non ci vado. La mia mamma non vuole, dice che non sono capace, che è meglio se vado a fare le faccende di casa, a pulire, preparare il pranzo. E che poi io voglio fare la maestra. Come la mia maestra, la signorina Esther Bedocchi di Reggio. Lei mi dà l'olio di fegato di merluzzo, lei mi fa andare in colonia, pure se il mio papà non è iscritto al fascio. Per me la signorina Esther è come il sole. Io mi impunto che voglio fare la maestra. Quando se ne parla a casa le zie non sono d'accordo, dicono che no, che il sacrificio va fatto per il maschio, che la figlia femmina si sposa e se ne va, dicono, se no poi chi ti mantiene da vecchi? Il sacrificio lo facciamo e come, risponde la mia mamma, lo facciamo per tutti e due, per tuo fratello Orio e per te. E così sono andata a fare le magistrali a Reggio. La zia Dirce mi ha preparato un vestito nuovo, un vestito da signorina, il giorno del mio esame, il 10 giugno del 1940. I professori ci mandano fuori, sulla piazza davanti alla questura. Ci sono ragazze, ragazze, vecchi, la gente che parlotta, altoparlanti che urlano, gerarchetti. Poi il discorso. Mussolini dice che dobbiamo entrare in guerra. La gente applaude, si gira dall'altra parte e qualcuno fra i più vecchi si copre la faccia col vestito. Qualcuno fra i più vecchi. ricorda la guerra e gli viene un po' da piangere. L'8 settembre vediamo passare un gruppo di ragazzi con le facce strane, vestiti alla bene e meglio. Si fermano in mezzo alla piazza, non sanno cosa fare, non hanno nemmeno la forza di parlare. I paesani li guardano da lontano, qualcuno continua a lavorare, qualcuno si ferma. Intorno c'è tutto silenzio. Poi qualcuno si avvicina. Dicono: sono inglesi. Sono prigionieri scappati, quei ragazzi vogliono andare verso su, verso la montagna, ma mangiano e partono da Bibbiano, che è l'ultimo paese di pianura a ridosso della montagna. Da tutta la bassa cominciano ad arrivare ragazzi, quelli vogliono diventare partigiani. Le case si riempiono di roba da mangiare, di pane regalato, di chiodi a tre punte, di forme di formaggio che ruzzolano fra le case, di bestie macellate clandestinamente e di armi. Mio padre entra nei SAP, le squadre di azione patriottica, i partigiani di pianura, quelli che fanno i sabotaggi, i collegamenti. Io lo vedo più poco, non dorme più a casa, continuo ad andare a scuola. Mi promuovono e mi regalano la mia prima bicicletta, è una bicicletta azzurra, sportiva, di quelle col cambio. Con la bicicletta io vado a scuola, 20 km ad andare e 20 a tornare. San Polo, Bibbiano, Cavriago, Reggio Emilia, Cavriago, San Polo, Bibbiano. Poi bombardano Reggio, Noi prendiamo le biciclette di corsa e corriamo a cercare cugini, parenti e zie. È il giorno 8 gennaio del 44, la scuola la sfollano, è troppo lontana per me e così me ne rimango a casa. Do una mano a mia mamma, gli aerei continuano a volare sopra Bibbiano, sopra tutta la bassa. Io quando li vedo salgo su di corsa, ma faccio: scendi, urla mia madre, scendi. Io rimango a bocca aperta, scendi, urla mia madre. Sento il rumore degli aerei, ma faccio dalla finestra e vedo mio padre che arriva da lontano. Allora corro verso di lui e glielo dico in faccia, mi scappa proprio mentre arrivo là davanti. Io voglio fare la partigiana. Cosa? Fa mio padre, ma tappa la bocca. Io insisto che voglio dare una mano. Cosa? Fa mio padre e mi porta dentro casa. Ma tu devi andare a scuola, tu sei troppo piccola. Io non sono una ragazzina, io ho 16 anni. Poi io sono cocciuta e allora corro e vado da Mario, il fornaio, perché Mario è il capo. Ecco, quello non mi dà retta, continuo a lavorare. Io lui fa finta di non conoscermi e io gli vado dietro. Sono Teresa, sono la figlia di Prospero. Glielo dico, glielo ripeto, glielo urlo in faccia, ma quello niente, vuole parlare con mio padre. Io mi arrabbio, mi viene da piangere. Sono Teresa, sono la figlia di Prospero, voglio dare una mano, voglio fare la partigiana, ma perché non mi danno retta? È così che sono entrata ufficialmente in guerra. vestito estivo. Estate 1944 e tutto a margherite bianche e gialle, sfondo blu. La zia Dirce l'ha ricavato dalla gonna del mio vestito da contadina, quella arricciata di quando ero bambina. Secondo me, dall'aeroplano quei fiori si vedono molto bene. Se lo sento arrivare io mi butto fra i campi, sotto le viti o gli olmi. Il mio papà mi ha istruita, mi ha detto a cosa devo stare attenta, me lo dice e me lo ripete sempre. Per primo, ai posti di blocco, soprattutto alle brigate nere, perché quelle girano in bicicletta. Quelle sono peggio dei tedeschi, sono peggio perché quelle i forestieri li riconoscono e riconoscono anche te. Quelle la gente la conoscono. Di che paese sei? Da dove vieni? Vieni da Bibbiano, conosci... Questi mio papà li chiama i brutti incontri. Bisogna passare per carraie, scorciatoie e sentieri, lontano anche da certe case. Io ho anche l'incarico di portare i messaggi. I messaggi io li porto a voce. Do ordini, convoco riunioni, avverto di pericoli. Quando devo portare ordini scritti, però sto un po' più attenta, raccolgo a treccia i capelli e li riempio di pezzi di carta grandi, dove sono scritti gli ordini, e pezzi di carta ancora più grandi che io nascondo nei libri di scuola, che se mi fermano ho sempre la risposta pronta, se mi fermano con quelle trecce sembro proprio una ragazzina. Però quando la strada è libera io mollo il manubrio e volo a braccia aperte, vola la voce, vola tutto il mio vestito, il vestito margherite bianche e gialle, quello con poco blu di sfondo, quello che mi ha fatto la zia Dirce col vestito da contadina di quando ero bambina. Lascio la gonna salire su che mi scopre tutto e che mi veda Pippo l'aereo che svolazza sulle nostre teste, che mi traia questo e quello, e che mi vedano i tedeschi e i fascisti, e che mi veda mia madre che mi si raccomanda sempre attenta col vestito, guarda che è troppo corto, guarda come va in giro. Un contadino mi vede, io tiro giù la gonna e arrossisco un po'. In poche parole sono sempre in giro con la mia bicicletta. Le strade e i sentieri me le insegna il mio papà. Come ti vuoi chiamare? Mi dicono. E per fare cosa? Rispondo. Bisogna darsi dei nomi di battaglia, che ne dici di Annushka? Annushka? Annushka, sì. Suona proprio bene quel nome, Annushka. Ci sono molte spie in giro per i paesi intorno a Bibbiano. Io me ne devo andare in montagna durante il freddo inverno del 44. Il freddo inverno del 44 pare che non finisce più, ma poi si ferma e riparte l'offensiva. Io me ne vado a Vetto, che sta al confine con la provincia di Parma. Sono 30 chilometri da Bibbiano. A Vetto c'è il centro staffette e io a Vetto ci sto fino ad aprile. Là è zona partigiana. Lì mi aspetta Mario Ferrari, il fornaio, che è diventato il comandante della 144esima brigata. Adesso ho anche il nome di battaglia, Marius. Vai al centro staffette e prendi ordini, mi dice Mario. Io so che c'è mia cugina Maria e quando arrivo mi presenta le altre. Siamo tutte molto giovani. C'è mia cugina, c'è una certa Mirna di Barco, che è un paese vicino al nostro, Barbara, Regina, Gloria. C'è anche una certa Creola, molto bella, bruna, viene dalla Bassa. Quando siamo fra di noi al centro staffette, ci raccontiamo le nostre storie. Dai, Annushka, fai vedere il vestito. È un vestito grigio, semplice, me l'ha regalato il Jeep. Jeep... fa il sabotatore, fa saltare ponti e ferrovie. Noi staffette li accompagniamo in casa di persone fidate. Loro fanno il loro lavoro e poi tornano in zona partigiana. C'è molta simpatia fra noi. Una volta ci siamo dati pure qualche bacio per strada. Fatto sta che lui si considera il mio fidanzato. Io non lo so. Però il Jeep mi ha regalato il vestito lo stesso. È un vestito grigio, molto semplice. E dentro questo vestito, nel taschino... la sarta ha ricamato in bei caratteri rossi il mio nome di battaglia, Annushka. Quando siamo fra di noi, ridiamo, io e le ragazze del centro staffette, e parliamo del nostro presente, del nostro futuro. Ma quando Laila racconta, noi rimaniamo in silenzio. Laila è la comandante dei gruppi combattenti. Tu la riconosci perché è l'unica che va in giro con i pantaloni. Lei è fuggita dalla pianura, ma anche dal suo fidanzato, uno di quelli che dicono «Taci tu, donna!» Non era l'uomo giusto. Dice che è stata una sofferenza e che ha faticato a scrivere quella lettera parola per parola. Però dice pure che è meglio così. Poi un giorno le si avvicina un partigiano, si chiama Fifa. proprio così. È il comandante del distaccamento Fratelli Cervi. Laila lo stima, gli vuole bene, c'è molta simpatia fra loro, però gli dice: aspettiamo, aspettiamo che finisca questa guerra, aspettiamo che tutto si sistemi, aspettiamo. Una notte sentiamo Laila gridare e piangere nel sonno e noi le chiediamo perché, e quella all'inizio non ce lo vuole dire e poi comincia a raccontare. C'è Fifa che chiede aiuto e dice: perché non mi cercate? Perché non mi venite a prendere? Io ho freddo, sto morendo. Questo è il sogno di Laila, è il sogno che ci racconta sempre. Fifa è sparito dopo una missione tra il 21 e il 22 novembre del 1944. Tutti lo cercano, tra i feriti, tra gli scampati, tra i catturati. Non poteva avere disertato. A primavera, quando la neve si scioglie, lo trovano in fondo a un burrone con una sola ferita ad un braccio. Questo è il sogno di Laila. Noi rimaniamo ad ascoltarla in silenzio. Alcune volte però sono io che sogno di essere come Laila, la comandante dei gruppi combattenti, anche se io ho un po' di paura delle armi. Un giorno su in montagna mi si avvicina un gruppo di ragazzi e mi dicono: è tua, prendila, è tua. Mi regalano una pistola cromata, tre colpi, calibro 6, l'hanno presa da un sequestro a qualche fascista, a qualche tedesco. Mi fanno vedere subito la sicura. La guardo, sembra un giocattolo. La peso e la pulisco di nascosto. È tua, prendila, è tua. E dove la metto? Sotto la sella, no, non c'entra. In mezzo al cestino del pane, della frutta. No, perché se poi mi chiedono di aprirlo, allora mi viene in mente una cosa. La pistola la metto qua, qua vicino, in mezzo al petto. Che se mi capita qualcuno almeno so cosa fare, che io nemmeno so sparare. Una volta su in montagna mi hanno dato un fucile in mano, capirai. Piccola, secca come sono, ci sparisco dietro quel fucile. Sembra che tengo in mano un cannone. Là devi mirare, fa qualcuno, là. Ma là dove? Là, e indica un albero, una grande quercia che sta a qualche metro. I maschi mi stanno lì a guardare, pure quelli più lontani, quelli che spezzano le fascine. Un gruppetto di ragazzi si avvicina, si danno le gomitate, li sento ridere, ma non mi giro a guardarli, vorrei prendere il fucile e darglielo in testa. All'improvviso mi sento volare, sospesa a mezz'aria, sbatto i piedi, sembro un pesce tirato fuori dall'acqua. E poi mi accorgo dell'impatto. Qualcuno non mi fa cadere per terra, qualcuno mi prende da sotto le ascelle. Mannaggia a me e a quello stramaledetto fucile. Mi accorgo di non aver respirato, invece del fiato mi escono fuori parole tutte insieme: incoscienti, imprudenti, incoscienti sto fucile, incoscienti, ci possono sentire lungo tutta la vallata. Ma la verità è che non riesco a guardarli in faccia, a quei ragazzi che mi prendono in giro. È come quando vado dal macellaio a prendere la carne, a balbettare le istruzioni, o al mercato, con tutta quella gente che urla, che mi passa davanti, e io lì in fila, rossa di rabbia, in silenzio. La pistola la metto qua, qua vicino, in mezzo al petto. Ma funziona? Due ragazze di Cavriago sono state arrestate. Sono state prese dai fascisti, si chiamano Bruna e Tina. Non hanno mica parlato. Bruna però ci ha raccontato una delle torture. Con un rasoio e il bisturi le hanno tagliuzzato i seni e poi nelle ferite ci hanno messo il sale. Tina è stata una notte a dormire dalla mia mamma. La mia mamma la tiene accanto a sé. Tina non ce la fa a muoversi. Bisogna aiutarla a coricarsi perché ha dolore dappertutto. Che cosa ti hanno fatto? Come ti hanno ridotto? Dice la mia mamma. Mai e poi mai, risponde Tina, racconterò a nessuno. Non è possibile raccontare. Tina ha dovuto farsi curare per tutta la vita. D'estate viene su a Vetto la zia Dirce. Viene in bicicletta, che da Vetto a Bibbiano sono 30 chilometri. E ci ha portato qualcosa di cambio, ci porta il tabacco e ci racconta della mamma che ha da fare perché è presa a seguire tutte le faccende della casa, del papà che sta bene, che è in montagna. E poi alla fine la zia Dirce ci racconta di lei. D'estate la sartoria si trasferisce fuori dal cortile, si cantano le canzonette, si ride, si canta Parlami d'amore da Mariù oppure Ma Pippo Pippo non lo sa, si canta squarciagola. Durante la guerra noi altri non cantiamo mica, io Bella Ciao, Soffia il vento, le ho sentite solo dopo la guerra, solo una volta, io e mia cugina Maria ci siamo messe a cantare questa canzone, è una canzone segreta, si chiama La Guardia Rossa. Maria è brava a cantare, canta come un angelo per me. Io le dico di abbassare un po' la voce pure perché io sono un po' stonata. Andiamo con le biciclette affiancate in mezzo a quella strada, con le case poco distanti. Ecco s'avanza uno strano soldato. Vien dall'Oriente, non monta destrier, non ha pennacchi e galloni dorati, ma sul berretto, scolpita nel cuor, porta una falce e un martello incrociati. Lo strano soldato. Io lo aspettavo, lo sognavo più del principe azzurro. Siamo un po' dei sognatori noi. I mezzadri vogliono essere liberi, vogliono coltivare la propria terra. I miei cugini sognano di studiare senza chiedere il permesso al padrone. Le donne delle reggiane sognano una paga migliore, meno ore e più rispetto. Certi giorni, nei giorni di primavera, quando non fa troppo freddo, prendo e vado al fiume da sola, lancio i sassi e conto. 1, 2, 3 febbraio, marzo, aprile 1945. Il 25 aprile non mi ricordo di averlo festeggiato. Mi ricordo di aver preso il diploma e di essere partita verso Ligonchio, verso la Bassa. Ho vinto il concorso io e adesso faccio la maestra.